L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, che questa settimana andiamo a vedere un po' come si sviluppa nelle scuole. Parliamo di un progetto innanzitutto, poi ne affronteremo anche altri in questa puntata, ma il primo progetto di cui parliamo è il progetto EcoGuard, varato dai consorzi nazionali Ecoped e Ridomus per il recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. E proprio per rappresentare questi consorzi è con noi, e lo ritroviamo con piacere, il dottor Giuliano Maddalena. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E per parlarci di come si sviluppa questo progetto nella sua scuola abbiamo con noi Giulia Cappi, che è docente dell'Istituto Comprensivo Sauro di Brugherio in provincia di Milano. Buon pomeriggio anche a lei. Anche a voi, grazie. Dottor Maddalena, intanto ci dica, cos'è questo progetto EcoGuard? Come nasce? Che obiettivi si pone? Ma allora, il progetto EcoGuard è un progetto di controllo di tutta la filiera, filiera della gestione del rifiuto dei elettrici, dei RARE. In particolar modo questo progetto EcoGuard ha anche una sezione relativa alla formazione dei ragazzi e delle famiglie per incrementare la raccolta delle piccole apparecchiature, e questa sezione formativa l'abbiamo chiamata un tesoro in cantina, e consiste proprio nel formare i ragazzi delle scuole elementari e le loro famiglie alla necessità di iniziare con forza e con costanza a riciclare le piccole apparecchiature, e quindi separarle e tenerle separate dal resto dei rifiuti. Piccole apparecchiature che molto spesso, quando non sono più in uso, vengono per l'appunto conservate in cantina, in garage, insomma nascoste, ma sono pur sempre un piccolo tesoro. Dottoressa Cappi, voi perché avete deciso innanzitutto di aderire a questo progetto e di portarlo avanti nelle vostre scuole? Allora, prima di tutto il progetto è stato presentato all'interno del piano del diritto allo studio del comune di Brugherio. Abbiamo come istituto abbracciato molto volentieri questo progetto, anche perché nella scuola ormai da anni facciamo questo lavoro di educazione ambientale con i nostri alunni, di raccolta differenziata, e quindi anche questa è una raccolta differenziata che magari ci sfugge anche come adulti, ma che in realtà è opportuno fare. Per cui abbiamo aderito a questa iniziativa. Devo dire che le famiglie per la gran parte hanno aderito e hanno collaborato in grande misura. È una piccola nota dolente che non sempre leggono quello che non si può mettere in quel contenitore di raccolta, e a volte ci ritroviamo magari dei tesori in cantina che in realtà non vanno messi lì, ma andrebbero poi portati alla piattaforma differenziata, eccetera. Ma anche questo però è educativo, insomma, per i genitori questa volta, perché impareranno che cosa può essere considerato RAE e che cosa invece non lo è. Giuliana Maddalena, voi avete approntato un bellissimo materiale per le scuole con tanti fumetti, c'è anche questo personaggio, ha un nome, questa guardia, questo sì, bambino? Sì, l'abbiamo chiamato EcoGuard, proprio come. Ah, proprio EcoGuard si chiama. E lui è un po' il personaggio chiave di tutte queste avventure, ce ne sono appunto nel materiale che viene fornito alle scuole, ed è colui che spiega ai bambini, e adesso lei ci deve dire perché i bambini della scuola primaria e magari non altri. Beh, questa è una bella domanda. Allora, questa volta noi volevamo andare un po' oltre i classici progetti di formazione. Infatti questo progetto è fatto a più mani: da una parte c'è la scuola, dall'altra parte ci siamo noi, dall'altra parte ancora c'è la società di igiene urbana, in questo caso c'è il CEM, Consorzio Est Milano. Per quale motivo? Perché non volevamo limitarci a sensibilizzare, ma volevamo anche fare. Quindi abbiamo messo all'interno delle scuole, in collaborazione appunto col CEM e con la scuola stessa, dei contenitori, tra l'altro esteticamente credo molto carini, ma poi sarà l'insegnante a dirci se li ha apprezzati o meno, dei contenitori nel quale i ragazzi possono portare i rifiuti elettrici. Ora però, visto che i ragazzi sì, magari possono avere la radiolina o un piccolo iPod o non so bene cos'altro, ma in realtà i tesori sono ben più numerosi, sia in termini di quantità che in termini anche di qualità proprio, abbiamo pensato che dovessimo avvicinarci alle famiglie, e quindi dovessimo porre questo contenitore nel percorso tipico della famiglia o nel percorso tipico di un genitore adulto. E allora il liceo ormai il genitore non porta più nessuno, già le scuole medie si fa fatica a portare i figli, in scuola elementare così anche per esperienza personale, tutti portano ancora i loro figli, no? Quindi è un modo, la scuola elementare è stato un modo per avvicinarci alle famiglie. Tra l'altro c'è un'ottima comunicazione tra i piccoli e i loro genitori, con cui si scambiano continuamente, insomma, quello che fanno a scuola, e per cui abbiamo iniziato di pensare proprio dalla primaria. Dalla scuola primaria. Com'è questo contenitore che vi hanno portato a scuola, Giulia Cappi? Molto bello da vedere, attira anche l'attenzione, praticamente è un contenitore colorato con uno sportellino che apriamo nei momenti in cui è prevista la raccolta, per cui il mattino quando arrivano a scuola i bambini, nel pomeriggio quando escono da scuola o se ci sono riunioni, in modo tale che i bambini stessi o i bambini con i genitori possono tranquillamente inserire il loro tesoro trovato in cantina. Dottor Maddalena, voi pensate di portare magari queste classi, o non dico proprio quelle di Brugherio, ma insomma in generale c'è nei vostri piani l'idea di portarli a vedere come vengono fatti certi lavori? È bene dire che il progetto in questo momento ha avuto il suo, diciamo, la sua esperienza pilota a Brugherio e in altre tre città dell'Interland milanese. E però è un progetto di tipo nazionale, respiro nazionale, e questo è anche il motivo per cui è stato patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dell'Istruzione. In particolar modo abbiamo già concordato con un impianto nel quale questi rifiuti elettrici vengono portati per il trattamento, un impianto ben gestito dove loro potranno vedere veramente quello che accade a questi rifiuti. È un impianto che si trova sul lago di Como, a Colico in particolar modo. E è proprio previsto una gita, mi passi il termine, proprio per andare a vedere che cosa succede ai rifiuti elettrici alle pile. E questo appunto è un dato molto importante. Se qualche scuola fosse interessata già a contattarvi per l'anno prossimo, si può? Sì, assolutamente. Tra l'altro è un'attività che noi stiamo cercando di far conoscere alle aziende di igiene urbana di tutta la nazione, diciamo di tutta Italia. È un'attività che stiamo cercando di far conoscere ai comuni, è un'attività nella quale stiamo coinvolgendo gli nostri stessi partner, gli impianti, no? Per cui i nostri riferimenti sono quelli del sito, quindi www.ecopet.org, c'è anche all'interno del sito c'è proprio la sezione del progetto Un tesoro in cantina, e quindi ci possono telefonare o ci possono chiamare per questo motivo, insomma. Grazie ai nostri ospiti, vi ricordo Giuliano Maddalena dei Consorzi Nazionali Ecoped e Ridomus e Giulia Cappi, docente dell'Istituto Comprensivo Sauro di Brugherio. A risentirci presto, magari con le conclusioni di questo progetto. D'accordo, grazie, buongiorno a tutti. Bene, ringrazio voi, grazie a voi. E da Un tesoro in cantina, progetto con cui si impara a recuperare i rifiuti elettrici ed elettronici, andiamo alle generazioni sensibili del programma Sorgenia per un uso consapevole dell'energia. Diamo il benvenuto a Riccardo Bani, direttore generale di Sorgenia. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E Loredana Baiguera dell'Istituto Comprensivo Santa Eufemia Est 3 di Brescia, dico bene? Benissimo, buongiorno a tutti. Dottor Bani, allora le chiedo innanzitutto che programma avete messo a punto per le scuole e per quali motivi? Allora, il programma è un programma di educazione dei bambini, riguarda le classi elementari, terza, quarta e quinta, e la prima e la seconda media, quindi di educazione all'uso intelligente dell'energia elettrica e del calore, quindi dell'energia termica, con l'intento di insegnare sin dai primi anni della nostra vita a utilizzare le risorse che non sono infinite del nostro pianeta, le risorse energetiche, perché consumandone meno da una parte si risparmiano dei soldi, che è sempre importante soprattutto in questo periodo, e dall'altra parte si fa del bene anche all'ambiente perché meno energia si consuma e meno emissioni in atmosfera si producono. Per quanto riguarda la scuola, Loredana Baiguera, perché l'energia e non altri aspetti? Che cosa vi ha convinto a insistere su questo? Ma la nostra scuola, devo dire, ha una tradizione molto lunga di attenzione verso i problemi ambientali, quindi noi abbiamo sempre attivato progetti ogni anno relativi ai vari aspetti, ovviamente, del risparmio, del riutilizzo dei materiali e l'uso consapevole delle risorse. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a questo progetto, quindi noi l'abbiamo presentato ai genitori nella prima assemblea annuale che si svolge di solito all'inizio di settembre. E poi poi l'abbiamo presentato ai bambini ovviamente all'inizio della scuola, quindi abbiamo attivato alcune attività in classe, abbiamo appeso il bellissimo poster che è arrivato nel kit e abbiamo cominciato, diciamo, una riflessione con i bambini sui vari aspetti dell'utilizzo delle risorse e su quello che noi nel nostro, diciamo, quotidiano possiamo fare per utilizzarle al meglio e quindi per risparmiarle, ovviamente. Per quello che ho visto, avete un po' dovuto trasformare questi bambini in dei piccoli detective a caccia di sprechi di energia, no? Sì, esatto, sia a casa che anche noi l'abbiamo trasferito poi anche nell'ambiente scolastico, che è quello che ovviamente c'è più familiare e più facile da controllare, da gestire, ovviamente. Che sprechi avete già individuato a scuola? Beh, sicuramente l'acqua, perché viene utilizzata dai bambini in maniera abbastanza libera, quindi sono state stabilite delle regole molto precise, poi l'energia elettrica, quindi ci impegniamo sempre a spegnere le luci quando usciamo dalle aule, a ventilare le classi, diciamo, in orari prestabiliti in modo da non tenere aperte le finestre e quindi uno spreco di energia anche per quanto riguarda la produzione di calore. Sono tutte queste piccole azioni quotidiane che sicuramente messe insieme abituano i bambini a un certo habitus mentale, sicuramente. Dottor Bagni, allora ci presenti un po' questo kit. I protagonisti sono due ragazzini, Joe Contavat e Lucy Energy. Che cosa fanno questi due? Vanno proprio, come diceva l'insegnante Baiguera, a cercare gli sprechi all'interno di un'abitazione oppure all'interno di un edificio. Il kit è realizzato proprio per avere un momento informativo di conoscenza su quelle che sono le aree dove si consuma energia, quindi gli elettrodomestici, l'illuminazione, anche gli stand-by, perché ormai in particolare i bambini usano molto gli strumenti elettronici, quindi tutte queste lucine che rimangono sempre accese anche quando queste apparecchiature non vengono utilizzate. Quindi un kit che con una parte, diciamo, didattica che viene fatta a scuola, con un poster che illustra appunto le varie aree dove si possono fare all'interno dell'abitazione, andare a ricercare gli sprechi e quindi fare efficienza. E poi il progetto prevede anche con dei taccuini di andare all'interno delle proprie case e insieme ai genitori ricercare proprio dove ci sono degli sprechi all'interno della propria casa. Si completa con un rapporto che ogni bambino e ogni classe farà e poi ci saranno anche delle premiazioni, quindi la migliore classe, la migliore scuola verranno premiati sulla base dei progetti, che gli elaborati che verranno fatti, i progetti che verranno presentati. Nella vostra esperienza quali sono gli sprechi più frequenti? Mi diceva appunto gli stand-by ad esempio, ma purtroppo ne sprechiamo abbastanza ancora, nonostante che ci sia sempre più consapevolezza del risparmio energetico, però dobbiamo ancora passare dalla fase, diciamo, della consapevolezza alla fase attuativa. Un'area che è quella degli stand-by effettivamente è poco nota, dove la somma di tutti gli stand-by, dei consumi, diciamo, sprecati da stand-by può arrivare a 260 kWh, che è quasi il 10% dei consumi di una famiglia media italiana. Poi abbiamo l'illuminazione, dove adesso sempre di più si stanno diffondendo le lampade ad alta efficienza, a basso consumo, ma abbiamo ancora un'ampia diffusione di lampade ad incandescenza che hanno dei grossi sprechi a parità di lumen e quindi di capacità di illuminazione. Gli elettrodomestici, perché quella è un'area dove ovviamente il cambio dell'elettrodomestico avviene tipicamente quando l'elettrodomestico si rompe e quindi abbiamo ancora molti elettrodomestici all'interno delle abitazioni di classi C, D, quindi di classe energetica ancora scadente e quindi con alti consumi, nonostante che ormai mi sembra sia largamente diffuso nel momento in cui si acquista un nuovo elettrodomestico di andare su elettrodomestici ad alta efficienza. E poi abbiamo la parte coibentazione, molto più complessa su come intervento, però gli infissi, questa è un'altra area dove, ahimè, diciamo, si spreca molta energia e così via, le caldaie. Ho fatto un elenco che comprende sicuramente un po' tutti noi, perché qualche spreco in ogni casa c'è. C'è sempre tempo per partecipare a questo programma, dottor Bagni? O si aspetta l'anno prossimo ormai? Le scuole che avevamo immaginato potessero aderire, che sono circa le classi sono circa 5.000, hanno aderito tutte. Qualche adesione può ancora arrivare, ma l'idea è quello, visto che, insomma, mi sembra abbia avuto un discreto successo, vorremmo riproporlo anche il prossimo anno, estendendolo anche ad aree dove non l'abbiamo fatto, perché l'idea era di farlo in aree pilota, appunto la Lombardia, alcune province del Lazio e della Campania. Benissimo, nel frattempo ricordiamo che c'è il sito internet generazionisensibili.it. Io ringrazio i nostri ospiti, ricordo Riccardo Bani, direttore generale di Sorgenia, e Loredana Baiguera dell'Istituto Comprensivo Santa Eufemia Est 3 di Brescia. Grazie. Grazie a voi. L'altro pianeta. Continuiamo a parlare di sostenibilità nelle scuole italiane. Diamo il benvenuto e anche il bentornato a Radio 24 a Marco Boschini, che nella vita fa tante cose, compreso l'assessore a Colorno in provincia di Parma, il coordinatore dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi. Oggi però è qui con noi in veste di scrittore ed educatore, perché ha scritto La mia scuola impatto zero, ricette virtuose per tagliare la bolletta energetica e moltiplicare l'educazione ambientale. Bentornato. Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Le chiedo, Boschini, di portarci qualcuno di questi esempi meravigliosi che lei porta nel suo libro. Nella prima parte della trasmissione noi abbiamo parlato già di energia e di rifiuti, ma nelle scuole italiane non solo di questo ci si occupa, ad esempio ci sono le mense, c'è l'acqua. Ci faccia qualche bel esempio, qualche scuola virtuosa. Sì, volentieri. La mia scuola impatto zero è un manuale pratico pronto per l'uso, per replicare in giro per l'Italia cose che ci stanno facendo in tutte le scuole da nord a sud in questo paese. Ad esempio, in moltissime delle scuole che fanno parte dei comuni dell'associazione e non solo, si usa l'acqua del rubinetto nelle mense scolastiche. Può essere un'iniziativa, anzi è un'iniziativa assolutamente a costo zero, che consente addirittura un risparmio economico per le casse comunali e che contemporaneamente fa più azioni. Intanto riduce la produzione di rifiuti, perché utilizzando l'acqua che esce dal rubinetto si evita di utilizzare l'acqua che viene portata nelle bottigliette di plastica. E si riduce il traffico, perché ovviamente non devono essere più trasportate con i camion, ma vengono comodamente servite con le tubature dell'acquedotto comunale. E si consuma un'acqua che il più delle volte è più controllata e più sicura di quella che andiamo a comprare al supermercato, e soprattutto si ottiene un effetto di contaminazione, perché i bambini nel momento in cui vanno a casa poi chiedono ai genitori di fare altrettanto nella propria abitazione. Quindi è un progetto che riesce al tempo stesso a far risparmiare soldi alla pubblica amministrazione, a ridurre l'impatto ambientale e a dimostrare che si può cambiare a favore dell'ambiente. Lei nel suo volume poi introduce questa importante non distinzione, perché non è una distinzione, però ha un bel modo di esporre: saper fare e far sapere. Perché bisogna, secondo lei, oggigiorno far sapere che si fanno le cose nelle scuole? È fondamentale, perché purtroppo spesso la rappresentazione diciamo del nostro paese, delle istituzioni, quindi anche delle istituzioni scolastiche, che viene fatta e che spesso noi stessi alimentiamo nelle chiacchiere da bar, è che appunto tutto in Italia non funziona. E non è vero, in tantissime comunità italiane ci sono servitori dello Stato che fanno delle cose meravigliose, siano essi insegnanti, amministratori e quant'altro. Bisogna far saperlo, bisogna raccontare quello che funziona, che in questo paese è tanto, ma che spesso appunto non ottiene la prima pagina. E al tempo stesso bisogna distribuire, contaminare, replicare le buone esperienze, perché solo attraverso il buon esempio che si può riuscire a coinvolgere i cittadini, soprattutto a partire dalle giovani generazioni, in un cambiamento che è necessario se vogliamo ridurre l'impatto ambientale e darci un futuro inteso come umanità. E poi bisogna fare rete, cioè darsi una mano l'uno con l'altro e approfittare delle esperienze che già altri hanno fatto, no? Esatto, il bello di questi progetti è proprio che sono stati già realizzati, hanno già ottenuto un risultato positivo e possono consentire l'esperienza di evitare a chi si accinge a farli propri tutta una serie di problemi e di difficoltà che chi ha già sperimentato il progetto hanno dovuto affrontare. Quindi contare su qualcosa che è già stato fatto può aiutare in un momento come questo, in cui ci sono poche risorse e poco tempo per fare le cose. Soprattutto per quello che riguarda le scuole, dove le risorse sono effettivamente sempre più scarse, anche se la voglia di fare è tanta, però bisogna rimboccarsi le maniche. Insomma, lei, tra l'altro, educatore, lo sa benissimo. Assolutamente sì, tra l'altro i bambini sono delle spugne che assorbono in modo assolutamente positivo e aspettano solo di essere indirizzati sulla strada giusta. E poi sono dei censori fantastici dei comportamenti dei genitori, perché c'è anche questo, per cui insomma si trasformano a loro volta in educatori delle loro famiglie. Assolutamente sì. Grazie davvero a Marco Boschini per essere stato con noi in questa parte dell'altro pianeta, che prosegue come sempre con Maurizio Mellis, ovvero con il nostro Mr. Kilowatt. Parlando di scuola ed energia, un buon punto di partenza è lo studio pubblicato nel 2009 dall'ENEA. L'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente fece allora una stima di quali fossero i costi e i benefici di un intervento che rendesse più efficienti le scuole italiane, che costano 1.800 milioni di euro l'anno solo di consumi energetici. Pensate che il 67% degli edifici scolastici è precedente al 1976, parliamo di circa 28.000 unità. Molte di queste, lo sappiamo, cadono letteralmente a pezzi. Questo per dire che in molti casi bisognerà intervenire comunque per ripristinare perlomeno condizioni minime di sicurezza e di comfort. Ebbene, l'ENEA valutò che era possibile riqualificare energeticamente, e non solo, quindi in senso più generale, dagli infissi agli impianti di illuminazione circa 15.000 edifici, dando la precedenza a quelli più malconci, e con una spesa di circa 6,5 miliardi riportarli alla decenza, con una riduzione di consumo energetici di circa 330 milioni l'anno. Un'operazione che da sola quindi si ripagherebbe in 20 anni, ma questo senza contare quasi 20 miliardi di indotto e il relativo aumento di gettito per le casse dello Stato, e soprattutto senza contare il valore di restituire dignità alla scuola e agli studenti. Beh, uno dei refrain che circolano più spesso a proposito dell'efficienza energetica afferma che dovrebbe essere il settore pubblico a dare il buon esempio. E che cosa c'è di più pubblico delle scuole? E dopo Mr. Kilowatt andiamo ad articolo 9, che è l'altra nostra rubrica, che ricorda l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, oggi siamo in Sardegna in compagnia di Alessio Satta, che è il responsabile dell'Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste. Buongiorno dottor Satta. Buongiorno a voi. Ecco, lei è a capo di un'agenzia che ha un nome molto antico e che già dal nome ci aiuta a capire che voi siete dei guardiani del faro, diciamo così. Che cos'è la Conservatoria delle Coste? La Conservatoria delle Coste è un po' l'unico caso in Italia, ma anche uno dei pochi nel Mediterraneo, di agenzia deputata alla conservazione delle aree costiere, quindi del loro paesaggio e del loro ambiente. Quali sono le coste che voi tutelate, che vi sono state affidate? Sicuramente il concetto della conservazione delle coste è anche interessante in quanto complementare a quelli che sono gli strumenti di conservazione, come dire, messi in campo dal Ministero dell'Ambiente. La conservatoria in Sardegna, per essere chiari, esistono due parchi nazionali, quello sì, della Svinara e quello della Maddalena, e poi esistono una serie di aree marine protette. Ovviamente la conservatoria si occupa di quelle aree non garantite da vincoli come quelle delle vincoli più che altro da forme di gestione come quelle delle aree marine protette dei parchi nazionali. Ad esempio tutte le aree delle vecchie bonifiche sarde, le aree minerarie dismesse, che comunque grazie anche a questi usi storici hanno conservato un'altissima naturalità e poi quella caratteristica selvaggia che caratterizza le coste sarde rispetto alle altre coste del Mediterraneo. Che cosa fate voi per tutelare questi beni paesaggistici che vi sono stati affidati? Questa missione che ha la Conservatoria delle Coste di salvaguardare, tutelare e valorizzare gli ecosistemi costieri è duplice: da un lato quello di mantenere la naturalità di questi sistemi, dall'altro quella di riutilizzare questo enorme patrimonio molto spesso abbandonato che cerchiamo noi in qualche modo di riportare a nuova vita, quindi dandogli delle funzioni che siano allo stesso tempo di uso pubblico, quindi aperte a tutti. Pensate anche ai siti militari che sono stati per secoli probabilmente chiusi ad un uso pubblico, adesso ritornano alla grande fruizione, diventano anche occasioni di ricettività originale, quindi anche di una ricettività di un servizio turistico che effettivamente rende ancora più originale l'offerta della Sardegna in un contesto molto competitivo come quello del Mediterraneo. Ma come vi finanziate? Come fate a sostenere la vostra attività? Ci sono due strumenti, chiaramente ci sono interventi che sono, come dire, assolutamente indispensabili, pensiamo anche a quello delle torri costiere, che sono dei beni che in qualche modo vengono tutelati in quanto beni culturali, sì. E degli interventi dove effettivamente riusciamo con un partenariato pubblico-privato a identificare, definendo dei paletti molto precisi sulla tipologia di uso possibile in quei singoli immobili, però coinvolgendo capitali privati, senza avere necessariamente paura di invitare i privati a proporre soluzioni sostenibili. Bene, e per concludere vorrei che lei accennasse a un salvataggio che state facendo particolarmente rocambolesco della Torre di San Vero. Ecco, cosa state facendo per salvare questa torre? Questa torre, come dice lei, è sicuramente in un contesto molto particolare, perché si trova in una parte della Sardegna, che è quella ovest, estremamente esposta ai venti di Mestrale e di Libeccio, che chiaramente erodono con una forte velocità tutto quello che sono le falesie, le coste di quel quadrante della Sardegna. Sì. Tutto questo fa sì che queste torri costruite nel Seicento piano piano stanno, come dire, si affacciano letteralmente sul mare, e lentamente, sostanzialmente, il mare, il vento ha eroso la base della torre, e da un lato, quello che è successo esattamente a gennaio, l'intera falesia si è aperta con una frattura, e quindi rischiamo veramente che tutta la torre con la falesia... Ecco, e voi cosa farete per non farla crollare nell'acqua? Noi per non farla crollare abbiamo pensato a un intervento urgente, che è quello di evitare che questa ruoti con un sistema a rete che la tiene ancorata a monte, e dall'altro quello ancora più avveniristico, che sì, in pochi casi in Italia, quella di smontare letteralmente la torre in grossi elementi per poi ricostituirla a piamonte. Questo ovviamente dovrà essere autorizzato da una specifica commissione ministeriale, perché sì, supera la competenza regionale, quindi la stessa soprintendenza regionale formulerà questa richiesta alla commissione ministeriale, che poi ci dirà se effettivamente possiamo spostarla. Bene, dottor Satta, grazie di questa sua lavoro e anche di questa sua idea di spostare la torre, che fa vedere come ci si può ingegnare pur di salvare il nostro patrimonio. Io ringrazio lei, grazie dottor Satta. Grazie a voi. E tutti quanti gli ascoltatori. Buona serata. Ed è tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini. We'll be right back.